Rock. Rock FM. Stiamo parlando di un'aggressione immotivata. Si può sapere di che parla? Dal mio tappeto. Non ti immischiare, donne, non hai il tuo capo. Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando? Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi. E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile. Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno... Ma porca puttana, cosa... Quello mi ha pisciato sul tappeto. Ha pisciato sul suo tappeto. Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo. E qual è? Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto? Pisciano sul tuo bel tappeto. Hanno pisciato sul mio tappeto. Esattamente, Drugo. Il tema del test attitudinale di quest'oggi era rock e leggende. C'è un celebre personaggio della storia del rock che è circondato da questa leggenda metropolitana che lo vorrebbe morto nel 1970 in un incidente stradale, e quello che noi vediamo quest'oggi sarebbe, secondo questa leggenda, solo un sosia. Tra l'altro, la interrompo, DJ Ariele, per dire che questa leggenda metropolitana è talmente pazzesca per cui il sosia che prevede un sosia talmente dotato da sostituire in tutto e per tutto perfettamente l'artista originale. Svegliamo le carte, era forse Elvis Presley? Ci dispiace, no. No. E allora forse era il mitico Pete, chitarrista e voce degli Who? E ci ridispiace, ma non era lui. E allora la risposta esatta era Paul McCartney. Ebbene sì. Sì, era proprio Paul McCartney dei Beatles. Segnaliamo che i sostenitori di questa tesi del sosia di Macca possono trovare pane per i loro denti digitando la semplice sigla PED, che starebbe per Paul is Dead, in qualsiasi motore di ricerca su internet. Migliaia di documenti che rintraccerebbero prove a favore di questa bizzarra tesi nei testi e nelle copertine dei Beatles stessi. Ricordiamo che fu addirittura lo stesso Paul McCartney, il 23 ottobre del 69, a smentire la notizia della sua morte in un programma radiofonico in diretta. O forse era un sosia? Chi lo sa? Mistero. Quest'oggi un test attitudinale ai confini della realtà. Everybody gonna jump and shout. gonna see me out. Everybody gonna dance around tonight. Dance tonight. Well, you can come over to my place if you want to. Okay, You can do anything you want to do. E quando uno sa scrivere, non ci sono mazzi. Altro che sosia. Paul McCartney in persona con l'ultimo singolo della sua produzione. Per l'appunto Dance Tonight. Entriamo ufficialmente nell'ultima mezz'ora di diretta di PBR fino alle 9 in nostra compagnia. La musica prosegue con Bon Jovi, Sgugugown, You Give Love a Bad Name. Abbiamo da fare il provino per il musicista rock con la bocca. Ce l'abbiamo redazione oggi? Sì, che ieri non l'abbiamo fatto, mannaggia. Restate su PBR. Della radio, voi sentite solo le nostre voci, io ho la fortuna invece di vedere anche in faccia giorno dopo giorno Roberto Friccantoni in splendida forma quest'oggi, eh? Grazie, vorrei esserlo, ma... ma finga un po', ma no, non tossisca, scusi. La prego, è un professionista. Lo so, è più forte di me. Che c'è oggi? La vedo un po' sbattutella. Insomma... Non vorremmo tornare a parlare di quel problema. Sì, è il continuo della storia. Quale? Quella che riguarda anche il blues. Che blues? Cosa c'entra, sì, maestro? Eh beh, sì, cantautori blues negli incroci. Il crossroad. Sì, sai, quella storia del demonio. E del il patto col diavolo, diavolo, sì, ne abbiamo sentito parlare. Sì, lei ultimamente... Eravamo io, Vasco e Zucchero. E Adelmo, sì, e Adelmo chi è, scusi, detto Zucchero, Zucchero, sì, e, insomma, loro hanno firmato e lei? Io ho stentato, però mi sa, insomma, che una mezza firma. Guardi, mi sono la fermato cosa a metà, mi sono fermato, la cosa importante è che non, eccolo, che non tossisca, no, non tossisca, la prego, non posso farci niente, si trattenga, la prego, la prego, non faccia così. Aia, io li ho già sentiti sti colpi di tosse, parli piano, maestro. Lei sta parlando al contrario. Lei sta parlando al contrario. Vuole che glielo dimostri? Un palindromo, mi legga subito. Arca sacra. Arca sacra. Lei sta parlando al contrario. È solo con i palindromi che possiamo scoprirlo. Mi dica ameno fonema. Ameno fonema. Solo noi ce l'abbiamo, perché Vasco avrà firmato, ma non sa parlare al contrario. Lei sì, grande maestro. Ho già cercato di spiegarglielo mille volte, non si capisce nulla di quello che dice al contrario. Vada, vada, maestro, è andata ormai. Le do la pillolina, le va? Star on era faso cosun estrofisse strofa. Oglieme o cattano. Ma gliela do la pillolina oggi, non sto lì a farla tremare. C'è di buono che almeno oggi non mi ha sputato mosche. Aia. Che fa, maestro? Ma questa, maestro, è una rana, un ranocchio. Guardi, questa è una rana, fa schifo. Ma smetta, la prego, maestro, basta! Guardi quante rane, è pieno di rane, è una schifezza! Non si può lavorare così con un pazzo scatenato indemoniato, se le tenga lei ste rane! Menare il mondo caso, lei è un razzista! Cani, sì, rane, no, cani, sì, rane, no, razzista. Last night, she Last Night, The Strokes. Gli ultimi minuti di diretta, tra pochi istanti appuntamento col nuovo provinante che vuole diventare musicista rock con la bocca, ma prima ho un'altra telefonata, glielo dobbiamo. Lui si chiama Alessandro, è un amico di Milano. Abbiamo tanti radioascoltatori che hanno preso il loro bel compito e lo portano avanti. Oggi abbiamo sentito anche Andrea che ascolta la concorrenza. Alessandro non ha un compito ben specifico, ma ci tiene un sacco a condividere quello che accade con noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Do il bentornato ad Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao Mario, buongiorno a tutti. Sei anche un patentato? Sì, sì, 352. 352. Allora, l'ultima volta ci eravamo sentiti per un calendario, a caso. Sì. Oggi invece, da quello che ho capito, è una notizia che volevi condividere con gli altri. Sì, una notizia, diciamo, per tutti i radioascoltatori che si lamentano del proprio lavoro. Oh, guarda, mi piace questa idea. Cioè, se c'è qualcuno all'ascolto lì incarognito che sta andando in ufficio con la macchina, Alessandro ha un può segnalare un lavoro peggiore del vostro, più o meno. Assolutamente sì. Assolutamente. Che succede? Allora, la notizia che abbiamo trovato su internet, allora, il titolo di questa notizia praticamente è "Metodo sicuro per lavorare sereni". La notizia riporta la seguente scritta. Perdonami, allora, Alessandro, ci stai telefonando da una grotta? No. No, sei un eco, hai un eco incorporato in te stesso? No, no, ma tranquillo, è bello l'effetto. No, speriamo almeno te no. Vai, prego. Allora, la notizia riporta: la prossima volta che vi sentite stufi e distrutti dal lavoro, sì, provate a entrare in farmacia e comprate un termometro rettale di una nota marca. Un termometro, ok, sì. Allora, quando siete a casa, chiudete la porta e staccate il telefono. Mettetevi in abiti comodi e sdraiati sul letto, aprite la scatola del termometro. Le istruzioni del termometro che si mette là. Sì. Tra l'altro, Alessandro, io uso quello per l'ascella, sarò onesto. Tu? Sì, anche ma tu. Anch'io, però... No, andiamo avanti, scusa, ti ho disturbato, vai. No, figurati. Allora, c'è scritto: posatelo sul comodino con cura perché non si rompa, prendete il foglietto che lo accompagna e leggetelo. Sì. Noterete che riporta la seguente dichiarazione. Ogni termometro rettale di questa nota marca è stato testato personalmente. Ah, complimenti. È questo il clou della notizia. Il clou che segna: adesso chiudete gli occhi e per 5 volte ripetete ad alta voce: sono felice di non lavorare per il controllo qualità di questa nota marca. E ricordate sempre che c'è qualcuno che ha il lavoro più schifoso del vostro. Grazie Alessandro, alla prossima. Ciao. Hey! Caro Frick, è arrivato il momento. Caro Ariel, è arrivato il momento. Il provino per diventare musicista rock con la bocca. Anch'io vorrei partecipare, e sono fortissimo. Lei può solo profinare i nostri radioascoltatori. La redazione ci segnala un radioascoltatore, presumo milanese, dovrebbe essere in linea con noi e dovrebbe chiamarsi Marco. Pronto? Eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno a voi. Bonjour. Benvenuto a Rock FM. Vuoi partecipare al provino per diventare musicista rock con la bocca? Certamente. Confermi? Confermo. L'accendiamo. Come hai fatto a iscriverti a questo provino? Ma ho telefonato proprio così, sono passato avanti agli altri. Marco, sei di Milano, possiamo chiederti quanti anni hai? 38. No. 38. E perché una vuoi... Bella età, sicuro? Sì, sicuro, l'accendiamo. Bene, bene. Perché vuoi diventare musicista rock con la bocca? Perché mi piace fare il rock con la bocca. Ah, questa è una risposta molto, molto razionale, molto grazie, giusta. Maestro. Marco, che cosa avresti scelto? Io avrei scelto Freezer di Elio le storie tese. Fa il simpatico Freezer. Che nervi. Un classico degli Schiantos. E con che strumento vorresti suonarla? Con il basso. Tra l'altro in fuori onda, maestro, Marco mi spiegava che vorrebbe fare un esperimento nuovo. Dico bene? Benissimo. Cioè, lui non solo vorrebbe suonarla con la bocca, ma in cuffia, non ho capito con che strano movimento di cose, lui sente anche il brano originale, dico bene? Benissimo, sì. Cioè, in un orecchio hai il telefono e nell'altro hai la musica. Cioè, orecchio sinistro telefono, orecchio destro cuffia. Marco, sei il primo che propone una cosa così, vediamo come va. Ma si può, vediamo. Il regolamento, sì, sfogliamo il regolamento, il regolamento lo accetta. Non parla di questa clausola, vabbè, quindi potrebbe andare bene. Allora, facciamo troppo la regola, dai, vi prego. Allora, se te la senti, Marco, in diretta Pane, Burro e Rock and Roll, interpreta al basso la bellissima Freezer degli Schiantos. Vai, Marco! Vai! 1, 2, 3, 4. Inizia. Molto bene. Non inizia. Ecco, iniziato. Se la ricorda? No. Ricorda il testo anche? Non so. Ci provi, maestro. È un freezer il mio cuore. Io non sento più amore. Mi fa schifo il tuo sudore. Ma che roba. Bravo. Ho paura che non si fermerà mai, Marco. Comunque. Bravissimo però, eh? Ce la fa tutta. Bravo, assai, perfetto, preciso. È una tecnica che anche gli altri dovrebbero seguire, perché lui ha il brano originale nell'altro orecchio. Senti, è un bel aiuto. Senti com'è dritto. È un bel aiuto, infatti. Adesso voglio vedere se non sviene. Prima o poi sverrà. Ah, qui cambia tono, cambia tonalità. Ma Marco non si ferma. Bravo. È un freezer il mio cuore. Tracco. Io non sento più amore. Tracco. Mi fa schifo il tuo sudore. Eccezionale. Sono quasi certo che la prossima compilation di successi degli Schiantos avrà anche questa versione di Freezer. Sì. Indubbiamente, troppo interessante. E intanto Marco non si ferma. No, non si ferma questo. Marco, sei stato bravissimo. Marco, la finiamo? No. Sei stato eccezionale. Troppo bravo. Non riesco come faccia. Ha finito! Bravo Marco! Bravo. Marco, torna tra di noi. Eccomi qua. Eccolo, complimenti, la tecnica ci sembra veramente avanti. Ha funzionato. Non faremo favoritismi perché lei ha scelto un pezzo degli Schiantos e come diciamo a tutti le faremo sapere. La ringrazio, vi ringrazio. Ma la vera furbizia è stata quella di sentire la base nell'altro orecchio. Questo aiuta molto, Sì. Dovremmo... Sono un vero cialtrone, l'avete insegnato voi. Sei un pioniere in questo... No, sei stato furbo. Sì. Sei stato un pioniere nella musica rock con la bocca. Grazie Marco, dovessimo formare una band, tu ci sarai? Certamente! Alla prossima, grazie. Ossequi al maestro. Grazie a voi, grazie a lei, grazie a te. Un abbraccione, bravissimo. Grazie. Ciao Marco. Ehi Rogna, stavo pensando di comporre un inno per noi cavie. Beh, se credi che ce ne sia veramente bisogno, fallo. Noi cavie da esperimento abbiamo bisogno di un inno, senti qua, dai. Avanti o cavie, alla riscossa, agli umani, rompiamo le ossa. Che te ne pare? Beh, non male, però se posso essere sincero, mi sa che l'ho già sentito. Te c'hai il cuore di pietra, rogna. Riprova. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. Data 138 che va a finire, iniziata strana e terminata peggio. Un saluto ad Alessandro, l'ultimo, il penultimo radioascoltatore che abbiamo sentito. A seguire abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico. Vabbè, vi siete persi l'inizio della puntata, che c'era la signora Carla, abbiamo parlato di Cassel, abbiamo dato i numeri del lotto. Beh, riascoltatevela su RadioRockFM.com oppure sul nostro spazio / pane burro FM. Questa è la fine. Cediamo il passo a Marco Garavelli e vi ricordo l'appuntamento di giovedì sera al The Sad di Milano con la Rock FM All Star Band e non solo, tantissimi altri ospiti, il gota della musica rock milanese, per la presentazione del videogioco Guitar Hero 3. Vi aspettiamo lì. L'ho detta giusta oggi, Garavelli. Ho azzeccato. Bravo, bravo. Grazie, grazie. Andiamo con la sigla. Pane, burro e rock and roll forse torna domani con la puntata 139. Ma pane, burro e rock and roll, noi ci proviamo, eh? La tua colazione rock. Oggi dobbiamo anche registrare una canzone nuova. Pane, burro e rock and roll. Ma non posso dire nulla. Ah, ho la bocca cucita. Non posso dire nulla. E te mi cuciti. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Rincontriamo dopo due ore Garavelli, che ci ha aiutato nei primissimi minuti di diretta. Ti ringrazio ancora. Vabbè, mi capita ogni tanto, eh. Signora Carla, aspettiamo la cassola comunque, Ma non alle 7:30 del mattino. No, ma noi se ce la porta a congelare. Anche gli scarti che non dà la figlia, noi la mettiamo nel freezer. Sì. E poi ce la mangiamo con tu calma. Tu e Isacco, lo so. Io e Isacco Rizzi ce la speriamo. Esatto. Perché secondo te Freak non ci puccia il dito? Sì, capisci. Lo so. Volevo fare una piccola anticipazione. Di che compleanno tipo? Del giorno. Fabione. Anch'io l'ho fatto. Hai già fatto. Uè, Fabione, auguroni. Auguroni. Anche Jimi Hendrix, tra l'altro. Capito? Sì. Gemellino di Jimi Hendrix. Beh, stesso giorno. Annate differenti, ma stesso giorno. Solo ai grandi capita. Buona giornata. Ciao.